Se non fosse stato per Roberto Saviano, che alcuni giorni fa ha dedicato un lungo e dettagliato servizio al rapporto Ecomafia 2009-2010 di Legambiente, poco avremmo saputo del rapporto stesso. Ad onor del vero, il mio quotidiano, Il Sole 24 Ore, ha dedicato almeno un servizio. Forse un po' l'abitudine a questi temi. Forse che in Italia va tutto bene, quindi non bisogna mai disturbare i manovratori. Fatto sta che questo rapporto è passato un po' sotto silenzio. Io mantengo una promessa con voi, radioascoltatori. Non soltanto ne parliamo oggi, ma ne parlerò anche nel mio blog nei prossimi giorni. Quindi andrò a trovare e a cercare le cose più interessanti di questo rapporto, che come ogni anno è interessantissimo. Lanza, quando batté la notizia, diede questo dato: 20 miliardi il giro d'affari delle ecomafie, 78 reati al giorno. Vuol dire tutto e non vuol dire niente. Sono stime, sono dati di fatto. Basta girare per le nostre strade e ce ne accorgiamo quanto, al di là della stima, sia vero che le organizzazioni criminali speculano incredibilmente sul business del cemento, il ciclo del cemento, del mattone, dei rifiuti e via dicendo.